RadioTube Social Network. Ed eccoci alla seconda ora del nostro RadioTube Social Village. Come sempre, da quest'anno si trasforma in social network per parlare di tutta l'attualità della rete e dalla rete. Tante cose questa settimana, cose leggere, cose simpatiche, cose gioiose e anche cose un po' delicate. Allora, chi c'è al mio fianco questa settimana? Ma c'è un collega, l'ho fatto scendere solo di un piano. Allora, la scorsa settimana era stato con noi al telefono, gli ho detto: quando vieni a trovarci in studio? L'ho fatto scendere dal Sole 24 Ore. Marco Lo Conte, ciao Marco. Ciao Marta, ciao a tutti, che emozione. Addirittura. Guarda, Marco, tu insomma con i social network hai molto a che fare anche al giornale. Social media editor, come si dice nei corridoi, social media coso. Social media cosa. Per drammatizzare, deve... insomma, certo. Per cercare. No, è quella cosa che non si sa bene che cosa va. Insomma, monitorare, guardare la rete, cosa dicono di te del Sole 24 Ore su Twitter, su Facebook, su LinkedIn. È una pratica un po' oscura, ma importantissimo, perché è fondamentale ascoltare la rete. Rispondere ai lettori è una cosa delicatissima, non facile, ma secondo me è fondamentale. Ti va allora di parlare un po' di attualità della rete, rete, anche parlando di temi difficili e scabrosi? Pronto a tutto. Partiamo subito in maniera un po' delicata, andiamo negli Stati Uniti. Questa settimana si è parlato tantissimo dell'affare Weinstein. Harvey Weinstein, produttore di Hollywood notissimo, accusato di molestie, 2 inchieste negli Stati Uniti, e tutto questo è arrivato anche in Italia. Ma vorrei fare un passo indietro, perché insomma, Marco, Harvey Weinstein pare che fosse noto per essere un po' esuberante, un po' troppo, ecco. Già da anni. Allora, senti, nel 2013 Seth MacFarlane cosa aveva detto annunciando le 5 nominate all'Oscar per miglior attrice non protagonista. Eccole qua: Jackie Weaver in Silver Linings Playbook, Helen Hunt in The Sessions and Amy Adams in The Master. Congratulations, you 5 ladies no longer have to pretend to be attracted to Harvey Weinstein. Allora, risata. Congratulazioni, nessuna di voi 5 attrici deve più far finta di essere attratta da Harvey Weinstein. Insomma, lo sapevano tutti che questo era un provolone. Sì, diciamo che magari il confine tra provolone è un'altra cosa. Ma poi, secondo me, è veramente una questione difficile, perché donne molestate, couch casting, cioè il casting fatto sul sofà del produttore, pratica orribile, però quanta complicità c'era, chi voleva avere delle scorciatoie. Sai che per me è molto difficile, è Marco. Molto difficile, allora, pur da donna è molto difficile. Da uomo, allora, da uomo devo dire che mi repelle abbastanza, ma non lo dico per fare bella figura, ma è veramente impalpabile la differenza tra quella che può essere una molestia e un essere in qualche modo potenzialmente complici. Quel che è vero è che nessuno lo sa veramente, certo. Forse neanche le persone interessate. Allora, sai invece chi è convinto di saperlo? Io sono un po' stupita, perché mi sembra che in rete tutti abbiano un giudizio molto netto, e sono tornati anche questa settimana gli hater. Difficile avere a che fare con gli hater, te lo chiedo da social media manager. Ma sì, allora, la rete in genere, perché forse perché il meccanismo è binario 0-1, no? E il digitale funziona così, ti fa perdere le sfumature. Marco, quando io ti ho proposto di parlare di questo tema, tu mi hai detto: sentiamo un social media manager che ha molto da fare e soprattutto maneggia materia molto delicata. Assolutamente sì, perché se ne è parlato molto alcuni mesi fa, però poi, come sempre, le notizie passano e sembrano che i fatti vadano in letargo. In realtà non è così, perché sui social media di UNICEF in particolare, quando c'è stata una impennata di notizie che riguardavano i migranti, l'arrivo dei barconi dal nord dell'Africa verso l'Italia, insomma, le ONG di cui si è parlato molto per possibili pratiche non corrette, allora UNICEF è stato messo sotto accusa dagli hater sulla rete. Per questo abbiamo coinvolto il social media editor di UNICEF, Alberto. Ti posso chiamare solo Alberto? Forse è il caso. Perché è giusto difendersi, anche perché è il tuo ruolo molto delicato. Sì, diciamo, il ruolo della nostra organizzazione è molto delicato, perché siamo un'organizzazione umanitaria che si occupa anche di minori migranti, e di questi tempi umanitario ONG è diventato un po' quasi un'offesa da cui dovessi difendersi, un'accusa, insomma. Senti Alberto, ma che cosa si prova? Te lo chiedo anche dal punto di vista un po' emotivo, perché poi non siamo fatti di razionalità astratta, siamo fatti di flesh and blood, si direbbe. Per un soggetto come UNICEF, che si occupa di interventi umanitari, essere messi all'indice come i cattivi di turno, anzi qualcosa di più, come conniventi e complici di quella orrenda pratica che è lo schiavismo, di cui sono purtroppo oggetto gli immigranti. Ma si prova inizio stupore, perché non eravamo abituati a essere attaccati in questo modo, e poi anche rabbia e indignazione, perché diciamo, sappiamo benissimo da dove nasce tutto questo. Insomma, se vogliamo tornare un secondo indietro, tutto questo fatto è successo a fine aprile, quando ci sono state delle indiscrezioni sull'inchiesta del procuratore di Catania, Zuccaro, e su quell'onda lì hanno aperto un processo sommario a tutte le leggi, no? Ci chiamavano tassisti del mare, complici degli scafisti, e noi abbiamo semplicemente deciso a un certo punto che era il momento di dire la nostra, e lo abbiamo fatto con un tweet molto semplice, chiedendo rispetto per chi salva le vite in mare e negando rispetto a chi infanga. Da lì è una svolta, perché iniziare a rispondere sui social, è veramente rivoluzionario. Poi non si ferma più, poi. Ma giustamente, nel senso che il tema è: la rete è un posto dove soltanto gli eter hanno diritto di parola, oppure qualcuno che ha argomenti ha diritto, se non dovere, di parlare? Anche Alberto, se a volte la pensa diversamente. Ma va benissimo pensare in maniera diversa, è il sale della democrazia, della vita, del vivere civile, ma all'interno di criteri di civiltà sostanzialmente. Quando avete deciso di iniziare a rispondere agli eter o alle persone in rete, ecco, come vi siete posti questa operatività? Avete strutturato delle risposte? Avete pianificato dei post? Cosa avete deciso sostanzialmente? Dunque, nel caso di cui stiamo parlando, in realtà è successo che noi abbiamo preso una posizione e non ci aspettavamo necessariamente degli attacchi di questo tipo. Era un venerdì pomeriggio, seguiva un ponte lungo, quello del 1° maggio, eravamo abbastanza tranquilli. Siamo stati aggrediti all'improvviso da decine, poi centinaia di persone che criticavano spesso in maniera molto molto violenta, e quindi siamo stati costretti anche un po' a improvvisare, dico la verità. Sono stato 3 giorni, 4 giorni inchiodato al computer fino alle 2 di notte, con grande malumore della mia famiglia, mi hanno maledetto per questo, però lo sanno come funziona, perché era successo anche altre volte su altri temi come quello delle vaccinazioni. La differenza è che questa volta invece si sono mossi anche gli opinionisti, i blogger, i giornalisti, e quindi diciamo la cosa è stata molto sotto i riflettori, e poi si sono scontrati fra loro haters e difensori. La cosa è durata veramente tanto, e quindi non si può staccare mai, non si può neanche andare a dormire di fronte a una cosa del genere. Diciamo, il consiglio che darei a tutti i social media coso come me, come Marco, è che quando si ingaggia una battaglia di questo genere, non c'è orario. Non c'è orario, non c'è domenica che tenga, bisogna essere pronti. E noi abbiamo anche, per fortuna, tanta gente che ci aiuta, sono i nostri follower, i nostri volontari, e in alcuni casi anche delle persone esperte che intervengono, soprattutto sul tema delle vaccinazioni, sono ricercatori, medici, infermieri, eccetera, che intervengono a darci man forte, soprattutto sugli aspetti più tecnici. Alberto, ti chiedo solo un attimo di pazienza, abbiamo il traffico, gli aggiornamenti sul traffico, poi ti rubiamo ancora un paio di minuti, perché vorrei chiederti proprio qualcosa su questo tema delle vaccinazioni, un tema delicatissimo. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it, col TH. Vi presenta... RadioTube Social Network. E siamo sempre con RadioTube Social Network, stiamo parlando di un argomento serissimo, intanto con Marco Lo Conte, che è accanto a me per questa puntata, sono molto contenta, social media manager, ma ormai definito social media coso del Sole 24 Ore, e abbiamo in collegamento Alberto, che fa questo lavoro delicatissimo all'UNICEF. Quindi stiamo parlando di come si gestiscono poi le guerre, che certo non sono dannose come le guerre vere, ma possono avere dei brutti effetti, le guerre sui social network, tra gli hater, insomma, abbiamo capito, differenze di opinioni sì, insulto va vigilato, però la mia ultima domanda è, visto che hai citato i vaccini, questa è una questione complessa, perché ha a che fare con la paura, con le preoccupazioni, con la mancanza di informazione. Come gestite, come avete gestito e come gestite ancora questo argomento? Dunque, innanzitutto ricordando che l'UNICEF nei vaccini ci sta in tutto il mondo, siamo il primo distributore mondiale di vaccini pediatrici, mentre in Italia non siamo noi che facciamo vaccinazioni, quindi potremmo anche disinteressarci del problema. Il problema è che i nostri figli, i nostri bambini sono vittime della disinformazione, e quindi prendiamo posizione anche su questo. Come lo facciamo? Cercando di fare quello che si chiama fact checking, e cioè dando rilevanza agli articoli scientifici, facendo parlare degli esperti. E questo purtroppo non è così facile, non è così facile, perché per fare fact checking ci vuole anche una genuina disponibilità ad informarsi, al dialogo. Certo. Spesso gli haters, soprattutto nell'ambito dei vaccini, non hanno nessuna intenzione di cambiare opinione, e quindi diventa un po' un muro contro muro. E questa è la cosiddetta omofilia delle reti, per cui la gente va a cercare in rete solo quello che conferma la propria opinione. E non scantona quello che invece può metterla in difficoltà. Ma io voglio sottolineare come invece non sia tutto perduto, perché rispondere in rete con degli argomenti veri, certificati, sottoposti a fact checking contro lo sfogatoio dell'odio, poi alla fine funziona, perché fa rete tra tutti coloro i quali cercano di utilizzare questi benedetti neuroni che madre natura ci ha dato, e per cercare di migliorare la vita quotidiana. Non possiamo essere schiavi delle pulsioni, certo, odio, certo. Cioè, dobbiamo cercare anche in rete di ricordarci di essere esseri umani veri. Eccolo, il social media editor. Grazie anche ad Alberto, non ve l'abbiamo presentato con nome e cognome, perché appunto fa un lavoro un po' delicato, che si occupa del social media dell'UNICEF, insomma ha molto molto da fare. Grazie Alberto per essere stato con noi. E grazie a voi, grazie a tutti quanti che ci ascoltano. Ciao. E ora voltiamo pagina, caro Marco. Allora, abbiamo parlato di tante polemiche in rete, questa volta però andiamo insomma con qualcosa di un pochino più leggero. Quest'estate ti ricordi tutte le polemiche, sì, per Fabio Fazio? E come no? I compensi e quanto costava lo studio di Che Tempo Che Fa, poi è arrivata la polemica sui pesci, poveri pesci. E poi soprattutto questi ascolti di Che Tempo Che Fa. Forse si aspettavano qualcosa di più. Rai 1 è diverso, è chiaro, un altro forse, ma è veramente un altro pubblico, a distanza di due canali. Non lo so. Certo è che sarà un caso, ma questa settimana è successo anche questo. Io quindi vorrei celebrare tutte le persone di Rai 1, tutte le persone che continueranno a essere su Rai 1, e anche le persone che invece non ci saranno più su Rai 1, a partire da me. Oggi, diciamo, lascio questo ruolo, forse assumerò qualche altro ruolo, ma insomma questo è poco rilevante, e vorrei celebrare anche chi arriverà, perché insomma uno arriverà, uno dei più grandi professionisti di questa azienda, che è Angelo Teodoli. Allora, dopo tutte le polemiche dell'estate, è successo anche che Andrea Fabiano, peraltro molto molto presente su Twitter, un assiduo frequentatore della rete, ha lasciato la direzione di Rai 1. Sicuramente però è un caso, cioè le due cose non... è un caso. Sicuri? Caso. Secondo me è un caso. No, vabbè, sono quelle coincidenze. Allora, ma povero Fabiano, sai... Allora, ti dico, dimmi. Una delle cose più belle secondo me di un direttore di Rai 1 qual è? Spiegami, perché tu conosci quel mondo molto meglio di me. Allora, secondo me una delle cose più belle di un direttore di Rai 1 è a febbraio potersi sedere al tavolo delle conferenze stampa di Sanremo. Certo. Ufficiare un po' la conferenza. E quindi lui quest'anno ha appena fatto in tempo a sentire le novità raccontate da Baglioni, che Zacca ha dovuto lasciare lo scranno della conferenza stampa di Sanremo. Il ruolo di gran ciambellano di Sanremo. E mentre voi voi questa settimana eravate tutti lì presi a interpretare Rosatellum. Voi seri. Hashtag Rosatellum. L'hashtag vero qual era? Sanremellum. Sì. Perché è cambiato il regolamento di Sanremo. E gli ascoltatori di Radio Tube sanno benissimo che sì, vabbè, noi le novità che si sanno se le diamo un po' per scontate. Noi andiamo veramente ad analizzare il regolamento perché noi già così potremmo capire chi potrà vincere Sanremo. Cioè non sappiamo ancora chi è il cast, ma sapremo già chi vince Sanremo. Scusami, fammi capire. Allora, guarda, non te lo faccio capire io, te lo fa subito capire il nostro super super super esperto di Sanremo, Eddie Anselmi. Ciao Eddie. Buonasera Marta, buonasera Marco, buonasera ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio 24. Ciao. Oh, senti Eddie, allora magari non possiamo dire proprio il nome e cognome di chi vince Sanremo, però possiamo dire come si può vincere il Sanremo di quest'anno, perché non tutti se ne sono accorti, ma cambierà di molto il sistema di voto. Sì, il sistema elettorale, si sa, è un po' il gioco a cui giocano le canzoni. Se giocassimo a pallacanestro vincerebbe probabilmente quello più alto tra di noi, e se giocassimo a calcio vincerebbe quello meno alto, ma coi piedi buoni, coi piedi migliori. Sarebbe uguale. C'è chi è forte al televoto, c'è chi trova l'antipatia o la simpatia dei giurati demoscopici o degli esperti, c'è chi in sala stampa è antipaticissimo, c'è chi comunque ha sempre quel voto di stima o di familiarità o di conoscenza, di contiguità o di simpatia che comunque lo fa sempre galleggiare, anche o finire addirittura ridosso dei primi. Perché ho detto la sala stampa? Perché elimineremo le novità, detto delle eliminazioni che non ci saranno più, certo. Ma il risultato finale delle eliminazioni che non ci sono più contano poco. È come dire, il campionato di Serie A passa a 16 squadre da 22, va bene, ma il Crotone non è che domani potrà vincere lo scudetto. Certo. Quindi questo anche, è un dettaglio. Allora, quello che cambia è che i voti sera per sera non si azzerano più. Cioè devi piacere dalla prima sera. Esatto, ma non solo. L'anno scorso i voti costituivano una base, non si azzeravano fino al giorno prima della finale, poi c'erano gli eliminati, poi si ripartiva da zero. Addirittura i voti si riazzeravano un'altra volta quando rimanevano solamente tre cantanti in gara. Quindi l'anno scorso c'era stata l'eliminazione della 6, poi era rientrata in gara e anzi era andata bene alla fine. Esatto, però i voti ripartivano da zero, cioè nel senso si ripartiva, hai fatto le qualificazioni e riparti da capo. Adesso i voti della finale, nel frattempo, i voti della prima manche della finale, quella a 20, conteranno più o meno il 20% di tutti i voti necessari per arrivare nella manche a 3. Quindi se uno stona la prima sera e va male, però conterà fino alla fine. Conta. Sì, esatto. Mi sembra di capire che se devi essere bravo sin dalla prima serata, devi essere anche, come dire, in forma atleticamente per tutta la manifestazione e non basta, insomma, come è successo in passato, fare bella figura le ultime due serate. O fare bella figura con le cover. O con le cover che non ci sono più. Allora, c'è da dire una cosa. Sulle cover il giudizio è di duplice verso, perché se due anni fa gli stadio che non avevano avuto eco in sala stampa durante le prime due serate, perché in prova oltretutto Correia aveva cantato male, si erano accreditati poi dopo con la gara delle cover, certo, per quella che era stata la vittoria finale, addirittura in finale gli esperti gli hanno dato il 45% dei voti, il 90% dei voti disponibili per loro, quindi è stato un grandissimo successo. Viceversa, l'anno scorso avrebbero vinto la Mannoia, avrebbero vinto lo stesso gli stadio con il regolamento delle 5 serate, tranquillamente. L'anno scorso invece avrebbe vinto Fiorella Mannoia. Cioè perché l'anno scorso Ermal Meta l'aveva superata nelle cover? Sì, la Mannoia è arrivata credo quarta nelle cover, quarto o quinta. Non avevano fatto una gara delle cover brillantissime neanche a Gabbani. Ah certo. Gabbani non aveva fatto, sì. Quindi un po' le cover che piacciono al pubblico però disturbano, tra virgolette, la gara della canzone. Cioè, ma le cover non ci saranno, quelle delle cover spariscono. Basta, finito, Marta, è finita, basta. Ma io sono contenta, cover, guarda, basta. Perché io, ma Eddie lo sa, io avrei voluto una serata di cover con Non voglio mica la luna, Maledetta primavera, cioè con quelle belle canzoni sanremese, allora, non con quelle sciccose che usavano, dai. È un problema di scrittura autoriale. Abbiamo avuto un tentativo di fare la storia di Sanremo sotto Fazio, Fazio 1, quando Mengoni cantò Ciao amore, ciao. Abbiamo avuto delle serate a tema, come potrebbe essere quel tema vago della canzone d'autore italiana del 2014, o il tema del Nata per unire, la storia d'Italia attraverso la canzone, quello lì già portò cose un pochino più ricercate, un pochino più sofisticate, e continuare col tema sarebbe stato comunque una modalità di scrittura, qualcosa che avrebbe portato un'altra cosa da raccontare nel festival. Ci sono meno cose da raccontare nel festival, perché una serata di cover con Max Gazzè che ospita Marina Rei e Niccolò Fabi ha comunque meno appeal del Max Black, o da Marina Reni, cosa fai? E ti cantano con un bacio piccolissimo. Detto certo, come è successo, come è successo. Ok, la cantata di Rocco Siffredi, vabbè, quella è un'altra. Certo. No, ma se non fosse per Rocco Siffredi, per me è complicato più del Rosatellum. Ma guarda che complicatissimo, è complicatissimo. Marco, dai, hai l'ultima possibilità per questa volta di fare una domanda a Eddie Anselmi, perché guarda che è veramente Bibbia, complesso. È la Bibbia lui di Sanremo. Tutto, lui sa tutto. 1968, Eddie. 50 anni fa. Urca, ci saranno i 50 anni del 68 anche a Sanremo. I 50 anni della canzone con cui Domenico Modugno cantò a Sanremo in abbinato con Tony Renis, scusate, era la canzone, era Il posto mio. Ma perché cantò Il posto mio? Quale canzone fu scartata per far posto Il posto mio? La commissione nel quale faceva parte Renzo Arbore, da quale faceva parte, scartò Meraviglioso. In quanto parlava di una storia di un suicida che in punto di morte decide di amare la vita, e un anno dopo la vicenda che aveva coinvolto l'anno prima Luigi Tenco, non era il caso di parlare di suicidi a Sanremo. Esattamente. Beh, vedi Marco, cioè... Non lo prendi, sei Castagne. Sei un po' impressionato ma da questa. Molto. Io vi assicuro che è davvero... È lui, è il Nate Silver di Sanremo. Nate Silver è un prestigioso blogger statunitense che analizza fa del data journalism sul football americano, sulle elezioni. È l'uomo delle statistiche, è l'uomo che ti dice come andranno le cose sulla base delle statistiche, sa tutto, ha una memoria pazzesca, così come Eddie Anselmi. Grazie Eddie per essere stato con noi, tanto ci risentiamo perché qua dobbiamo fare l'avvicinamento a Sanremo, eh? A presto Eddie! A presto Marta, a presto Marco! Ciao, ciao, ciao! Noi ci ritroviamo tra poco, una breve pausa, poi saremo ancora insieme. Vi presenta... Radio Tube Social Network. Tutta? No, solo... Vabbè, sì. Dai, facciamo tutta. Perché registro. Maestro? La canzone delle globalità. Il quadro da ginnastica è svedese. La maggioranza solida è la vulgara. La fuga un po' alla Katie che all'inglese. E chi non paga il conto è un portoghese. Vabbè, ma io questi li conosco, Marco Loconte, che accanto a me per questa puntata di RadioTube, i Chapter 11. I Chapter 11, ossia, oltre a Marco Loconte, oltre a Mauro Merazza, che avete sentito e che sentite tutte le mattine insieme a Deborah Rosciani, Stefano Elli, che è l'autore di questa canzone. È un grandissimo artista, perché lo dico seriamente, delle canzoni ironiche come queste, ma anche quelle sbagliate, quelle serie, che fanno riflettere e palpitare. Anche romantiche, Stefano Elli fa anche le canzoni romantiche, sì. Poi li avete sentiti quest'estate nel Serpente Corallo. Era solo per dire, abbiamo parlato di Sanremo, beh, potreste andare qualche volta a presentare una canzone. Guarda, devo controllare la mia agenda. Capisco, perché però... tre giornalisti del Sole 24 Ore devono, poi Sanremo è un po' impegnativo, sì. Come tempi. Uno sforzo, però, guarda, vedo di farlo. Noi le selezioni le abbiamo fatte una volta, eh? Sì, di... sì. No, più o meno era qualcosa di simile. Niente Sanremo. No, però il premio Tenco sì, quello ecco, sì. Ecco, un'esibizione al Tenco, c'è stata, insomma, come primi alfieri del pop tributario, esatto. In Italia. Questa era la canzone delle globalità, che cerca di sdrammatizzare un pochettino la questione catalana, che in questi giorni ci sembrava quasi visto da qua, insomma, quasi una roba assurda, ma in realtà lì si sono menati. Certo. Hanno rischiato di picchiarsi in maniera molto... peggiore. Senti Marco, ma è inedita questa, perché questo era un provino che abbiamo sentito. Ebbene quindi sì, siamo pronti per un nuovo disco dei Chapter 11. Perché dovete sapere che Marta Cagnola si è infilata nei nostri server, secondo me ha trovato questa e ha trovato questo provino. Io ho dei complici, caro Marco. Abbiamo suonato per la prima volta questa canzone domenica scorsa al Sole 24 Ore in occasione della serata per Wondi. Okay. Per l'associazione Wondi, Francesca Del Rosso, e insomma ci tenevamo a portare una cosa inedita, perché una cosa inedita dà sempre quel brivido e regala al pubblico qualcosa di bello. Allora, diciamo, io per questa cosa rido da sempre. Sì. Cioè è un video che ha veramente tanti anni, che circola su YouTube prima che YouTube fosse famosa. Ma io non so se conosci questa cosa del video con le vere istruzioni degli aerei. Sto cioè, già ridendo. Avete presente i disegnini, quelli sui cartellini delle istruzioni degli aerei, quelle di sicurezza che nessuno legge? Ecco, queste sono le vere istruzioni degli aerei. Un video vecchissimo! Che brutte figure. Corso per interpretare le istruzioni degli aerei. Ecco cosa vogliono dire quei maledetti disegnini. I passeggeri con un look anni 80 saranno buttati nell'oceano. Dopo aver emesso una flatulenza, areate il locale aprendo il portellone. È vietato fumare sigarette giganti. Nel caso siate vittima di un attacco fulminante di diarrea, per cortesia uscite dall'aereo. Vabbè, a me questo video ha sempre fatto morire. È ovvio che se non ci sono i disegni si capisce meno. Andate a cercarlo, le vere istruzioni degli aerei, e io lo trovo meraviglioso. Ma perché parliamo di aerei? No, beh, ne parliamo perché l'aereo, beh, è un luogo particolare. Non solo l'aereo, perché l'aereo, insomma, il volo ci mette un po' in agitazione, sì, anche allora... chi non ha paura vera, ma insomma. No, sei guarda, comunque, allora io ti posso dire: l'anno scorso io ho preso 42 voli, quindi sono una che vola abbastanza. Non ho mai paura. Al primo vuoto d'aria, ogni volta dico: adesso? E adesso? Adesso? Immaginati l'anno scorso 42 voli, quanti vuoti d'aria ho preso? Vabbè, non importa, ma io sono sempre così. Qual è il momento in cui la tensione si fa crescente e si iniziano a dire, a fare prima, e soprattutto dire cose sconnesse? Prima. Prima, al check-in. Esatto. Allora, io quando ho detto a Marco Loconte, dai, vieni a condurre una puntata di RadioTube con me, chi vorresti invitare per parlare di rete, di attualità? Qual è il personaggio? Lui mi ha fatto solo un nome. Dai, presentamela. Ladies and gentlemen, Ambra Garavaglia! Ambra, ciao, benvenuta! Allora, ciao, una celebrità della rete, hostess di terra, autrice di C'è un problema al check-in, due punti, sei tu. Allora, Ambra... Mi sembra una frase cattivissima, ma non lo è. No, anche perché chi ti segue sui social, e sono tantissimi, ha imparato a ridere insieme a te, ma non con cattiveria, veramente no, ad avere esatto. sempre un sorriso per le scoperte assurde e per le richieste assurde che ti arrivano al bancone dell'accettazione, è così, esatto, Ambra? Esatto, sì, infatti non è assolutamente fatto per prendere in giro nessuno, ma proprio per rendere partecipe di quello che sia un piccolo mondo a parte come l'aeroporto, perché probabilmente è questo il problema di qualcuno. Io ho subito una curiosità, perché leggendo i tuoi tweet mi sono sempre chiesta, ma i tuoi, adesso poi che è uscito il libro, i tuoi colleghi come l'hanno presa, chi gestisce lo scalo, l'hanno presa con filosofia, si sono divertiti, anzi hanno amato questa cosa, o qualcuno si è un po' indispettito? No. Allora, innanzitutto lo hanno saputo da pochissimo tempo, nel senso che la mia pagina Twitter era una cosa mia, che non, cioè nel senso, non è che arrivavo al lavoro e dicevo scrivo su Twitter. Sì, hai 23.600 rimasta... follower, mica pochi. Quindi è sempre rimasta un po' una cosa mia, poi ovviamente con l'uscita dell'ebook si è sparsa un po' la voce, diciamo così, e l'hanno presa tutti assolutamente bene, prima di tutto il mio responsabile che mi ha chiamato per farmi complimenti, soprattutto per il modo in cui scrivo, che non è mai offensivo, non si riconoscono mai le persone, quindi comunque rimane tutto molto carino. I miei colleghi addirittura quando non sono al lavoro mi mandano loro degli episodi te le suggeriscono. Che capitano a loro. I ghostwriter, i ghost Twitter. Senti, esatto, questo esatto. Che mi è successo, twittala. Senti, esatto. ne leggo uno all'accettazione. No, finestrino no, mi si scompigliano i capelli. Eh beh, certo, scusa, sarà appena andata al parrucchiere. Questo rimane uno dei miei preferiti in assoluto, mi ricordo ancora la signora. Signora qualche chilo in più, porto delle cose di mia figlia, non conta una parte. Ma dov'è sua figlia? Parte settimana prossima. E poi si concludono sempre con il tuo rassegnatissimo. Ok. Ecco Ambra, allora aspetta, Ambra, faccelo dal vivo. Com'è il tuo bene. Okay. Ti scaldo la voce. Ok. È così, perché c'è tutto, guarda che c'è rassegnazione, c'è distacco, esatto. Ironia. È veramente denso questo ok, proprio ah, qualsiasi stato d'animo, esatto, in quel momento. Senta, mi posso imbarcare? No signora, non stiamo ancora imbarcando. Ma non vede che la bambina piange? Vuole andare sull'aereo. No, ma quanta pazienza ci vuole, Ambra? Cioè vi fanno, tanta. Vi scelgono per quello, ve lo insegnano? No, no, è una cosa che hai o che non hai. Devo dire che io ne ho molta, quindi sono fortunata. Beh, si può far ridere anche con intelligenza, con ironia, con garbo, perché sottolineiamo quanto accennava sempre con garbo Ambra. Insomma, non sono mai offensivi queste battute, queste cose. Sono sempre lo specchio poi di persone che probabilmente, come dicevamo all'inizio, Marta, un po' tese, dicono cose che in una situazione normale non direbbero mai, no? No, ma sì, la preoccupazione, immagino che comunque... Secondo me tu li identifichi al primo sguardo, cioè quando arrivano al bancone, sì, secondo me già sì. Sai. Devo dire di sì, che ormai ho imparato a conoscere i passeggeri già da come si presentano. Vedi, vedi. Poi ci sono altri protagonisti sul tuo Twitter, tuo figlio. Ah, ormai, ormai è un eroe anche lui. È un comico nato, sì, sì. Leo, no? Si chiama Leo? Leo, sì, ecco. Sì, Leo. Situazione attuale, passo le giornate a dire a mio figlio di non chiamarmi cacca e puzzone. Esatto, un disastro. No, però questa me la devi commentare. Mamma, mi sono fatto male. Dove, amore? Fammi vedere. Qui, sulla barba. Insomma, ormai ha quasi 3 anni e quindi inizia a uscire la barba. Senti, avrai cambiato qualcosa nel tuo lavoro? Nel tuo modo di affrontarlo usando i social? Cioè, magari qualche volta ti innervosivi di più, adesso la prendi con più filosofia? Sì, forse sì, sono anche più, devo dire, contenta di andare al lavoro, perché Twitter è come se fosse anche uno sfogo, un diario segreto, e quindi mi aiuta a scaricare magari le tensioni che ovviamente ci sono in questo lavoro per vari motivi, quindi Twitter mi aiuta a viverla un po' meglio. E allora lo consigliamo anche a chi fa altri lavori, quelli che magari appunto si innervosiscono un po', possono aprire un account Twitter, magari Marco facciamo degli account. Ma guarda, sì, noi l'abbiamo toccata un po' alta al Sole 24 Ore, siamo messi a scrivere canzoni. Addirittura per cui... sublimate con le canzoni. Vabbè, che meraviglia, c'è un problema al check-in, 2 punti. Sei tu. Grazie Ambra Garavaglia, grazie per essere stata con noi. Facci ancora ok, come ok? Ok. grazie mille Ambra. Ciao, presto. Ambra. Grazie. Allora Marco, abbiamo ancora uno spicchietto del nostro RadioTube, sì. E continuiamo a sorridere perché abbiamo iniziato la puntata con un tema tostissimo. Mm-hmm. E adesso, siccome so che tu come me sei appassionato di YouTube, ti porto a conoscere una serie molto divertente, e siccome ha anche a che fare con i problemi economici dei ragazzi di oggi, ti sfido un po' a trovare un terreno comune con i ragazzi di Estremi Rimedi. A tra poco! RadioTube Social Network. Eccoci per l'ultimo spicchio di questo RadioTube Social Network, la seconda ora del nostro RadioTube del sabato, ancora con Marco Loconte che ci ha tenuto compagnia per tutta questa seconda ora. Yes. Allora, per chi, lo conoscono tutti perché è spessissimo ai microfoni di Radio 24, anzi tu hai proprio iniziato con Radio 24 Io, tanti anni fa. Io, diciamo, ho acceso la radio il 4 ottobre del 1999 alle 7 e qualche minuto ero in onda, ero pronto col mio GR Economia alle 7:24. È vero, il GR Economia, quanti sì, ne ho sì, fatti sì. Io in quegli anni lontani. Allora Marco, però di te abbiamo anche raccontato la militanza musicale nei Chapter 11, gruppo di pop tributario del Sole 24 Ore, insieme a Marco Meazza, insieme a Mauro Meazza e a Stefano Elli. Marco, avete fatto, mi ricordo bene, una canzone anche sui giovani con troppe pretese? Sì, abbiamo ripreso la famosa, non molto felice frase dell'ex ministro Fornero: i giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione, devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi. Comunque. comunque c'è un modo per, lo dicevamo prima con Ambra Garavaglia, e lei ha trovato il modo per arrabbiarsi meno e vivere con più serenità il suo lavoro, aprendo un canale di Twitter, insomma, usando i social. C'è un modo per parlare anche con un po' di sorriso, con un po' di ironia di questi argomenti difficili, ed è magari facendo una webserie. Dai. Allora, questa webserie che scopriamo questa settimana si intitola Estremi Rimedi, poi capiremo a cosa sono questi rimedi, insomma, com'è la vita dei più o meno trentenni d'oggi. Beh, direi che è così. Ma ora tutto cambia maniocca. Ma io non ho lavoro, ma ti pare che la mia priorità è dall'osso rintintino? Ciao, Re. Tu chiedi i soldi a me. Io sono disperato, ma non ho lavoro. Top. Ma tu hai capito dove ti ho portato o no? No, lo so che è una cornice di prestigio. Per questo abbiamo deciso di dare una chance alle persone anziane come lei. Troppo giovani per il welfare, troppo vecchi per il digital, la politica non ci aiuta. Ho capito. Troppo giovani per il welfare, troppo vecchi per il digital, la politica non ci aiuta. Io lo trovo veramente bellissimo, perché è una frase estremamente vera. Voi al sole, che io dico al sole come se fosse lontano, è piano di sopra, però insomma io sono quasi sempre qua al primo piano. Come affrontate questo argomento dei trentenni? Perché è un universo affascinante, ma insomma difficilissimo da raccontare. Sì, li trattiamo con molta cura, perché non vogliamo farle arrabbiare. Noi che i trent'anni non li abbiamo più, cerchiamo di curarceli, perché non solo ci auguriamo e auguriamo loro di trovare presto un lavoro, un'occupazione, migliore fortuna, ma sappiamo che gli toccherà pure pagare le nostre pensioni probabilmente. E quindi li trattiamo benissimo, noi vogliamo tanto bene i trentenni. La generazione anni 80, vabbè dai, siamo poco lontani da questa generazione. Allora, Estremi Rimedi, i due coautori sono Francesco Mazza e Daniele Balestrino, sono i due protagonisti di questa serie, l'hanno anche ideata, e noi abbiamo al telefono proprio Daniele Balestrino. Ciao Daniele. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Generazione anni 80, troppo giovani per il welfare, troppo vecchi per il digital. Viene venuta da questo l'idea di riderci un po' sopra? Sì, c'è poco da ridere in effetti, ecco, però abbiamo cercato un modo almeno satirico per toccare questo argomento, che purtroppo è di attualità. Tra l'altro, di pochi giorni fa i dati Istat proprio che dicevano: ah, bene, il lavoro sta riprendendo, tranne che per i trentenni, appunto. Ecco. Sì, troppo giovani, perché in realtà non abbiamo goduto delle un po' agevolazioni della politica anni 70-80, ma anche di quello che era uno spirito che si viveva, tutti erano più, c'era la ripresa, e siamo anche però ormai troppo vecchi per il mondo digital, perché adesso, cioè, a 30 web... e qualcosa anni, 30 sì. something, perché allora dal trailer non so se si capiva, ma quello che vi dice vogliamo dare una chance ai vecchi è un ragazzino al quale, esatto, col quale uno dei due protagonisti si trova a fare un colloquio. Esatto, sì, perché quella è una puntata in cui noi facciamo due colloqui separati, il produttore di web, che però ha 16 anni e mi tratta come una persona anzianissima, certo, proprio distantissimo dal suo mondo, che però purtroppo è la verità, perché io che ho 30 anni alcune applicazioni, alcune cose digital non le so proprio usare, che ragazzi 16-18 anni, loro sono nati esattamente in questo momento di massimo sviluppo, e le sanno usare come fosse la cosa più normale del mondo. Marco, ed qua ci hanno creato un lavoro. Ah beh, loro, certo, sono sistemati, noi no. No, ma infatti noi che ne abbiamo qualcuno di più di al netto del rispetto, pochissimi di più, insomma, quel giusto quei in più, no, ma infatti noi guardiamo i sedicenni, che sono anche incidentalmente i nostri figli o le nostre figlie, che riescono a fare queste cose con stupore, con divertito stupore. Credo che non sia lo stesso punto di vista di un trentenne, evidentemente, no? Eh sì, perché sei quasi nello stesso campionato, esatto. Finché lo vedi da fuori. Noi li guardiamo con ancora più invidia, perché li vediamo più vicini a noi e comunque non siamo in grado di fare le cose che fanno loro. Quindi ancora peggio, ci sentiamo frustrati proprio, non sappiamo come uscirne da questa situazione. Daniele, però, Marco Loconte fa il social media editor, non abbiamo detto tutta la puntata. Voi avete fatto un episodio sui social media editor, due ragazzi che pur di lavorare fanno i social media editor per l'ISIS. Eccoli qua. È scoppiato un merdone. Cioè? Droni, Putin, Trump, l'ISIS ha i giorni contati. Ma questo è un bene. Aspetta, il califfo per rilanciarsi vuole un'idea social che diventi virale. E se non ci riusciamo? Se non ci riusciamo, saluta al melone. Questa è colpa tua, maledetto. È colpa tua, maledetto. Maledetto te, maledetta la tua stirpe e maledetto anche Attilio Lombardo. Sei tu che hai sempre detto di essere disposto a tutto pur di lavorare. Ma non intendevo mica fare il social media manager per l'ISIS. Allora sii più specifico. Allora sii più specifico. Ragazzi, voi venite dalla TV. TV, YouTube, cioè ormai... Non è un ripiego fare YouTube, è un'espressione diversa. Si può fare anche così, pensando di farla quasi a livello nativo, professionale? Ma nativo YouTube, no? Con lo stile anche, ecco, giusto? Ecco, da questo... Allora, la televisione e il web sono due cose completamente opposte. Il pubblico è l'opposto. Quello che sto capendo è che le vie di mezzo non funzionano. Ecco. Provare a unire TV e web è veramente difficile. Sì, diciamo perché... che la nostra serie un po' ci prova, perché comunque ha un taglio, non è propriamente da web, è una cosa un pelino diversa, strutturata in modo diverso, non è una serie girata, che ne so, con un cellulare. No, è proprio girata come una serie vera, ecco. Esatto, sì. Quindi già abbiamo fatto un esperimento, abbiamo voluto vedere se provare ad alzare un po' la qualità. Ecco, allora, diciamo, facciamo così. Una cosa, sfidiamo gli ascoltatori ad andare sul canale YouTube Estremi Rimedi, così guardano la serie, sono 4 episodi, sono godibilissimi e ci diranno come è andato l'esperimento. Allora, Daniele. Sì, per forza, speriamo bene. Me lo auguro. Io mi sono divertita molto. Grazie a Daniele Balestrino, coautore e co-interprete della webserie Estremi Rimedi. Grazie Daniele, in ciao. Bocca al lupo. Ciao. Grazie mille. Allora, Marco, grazie per avermi fatto compagnia in questa puntata di RadioTube. Torna molto, presto. Molto volentieri. Io sono, come dire, il tuo Lothar, il tuo maggiordomo, la tua spalla su cui, se vuoi, puoi piangere, se vuoi, insomma, se ordini un caffè te lo porto. Ecco, preferisco il caffè, ma non piangiamo per questa puntata. Allora, devo ringraziare anche Paolo Corleoni in regia e, come sempre, Cristian Goldoni in redazione. Noi ci troviamo sabato prossimo dalle 16 in poi, come sempre, con RadioTube.